Qual è il primo pensiero quando ti siedi per scrivere una nuova storia? Io quando mi siedo per scrivere una nuova storia penso esattamente al finale. Penso come deve finire questa storia, perché l'inizio è strettamente legato al finale. Hai mai paura di ricercare qualcosa che non vuoi trovare? Sempre, sempre, anzi, è la costante forse del mio lavoro. Molto spesso trovo cose e non avrei voluto trovarle perché hanno un'incidenza notevole nella mia vita. È questo che succede scrivendo. Quale oggetto rappresenta di più la tua vita di scrittore? Sicuramente una vecchia penna, perché io penso alle parole che sono passate attraverso quella penna prima di me e penso che dovrò tramandarla insieme a ciò che scrivo. Quale paese vuoi scoprire e ancora non hai raggiunto con i tuoi libri? La fortuna è non saperlo, esattamente. Il segreto più misterioso del cuore di una donna? Beh, il segreto più misterioso del cuore di una donna è sapere per quanto tempo ti amerà. L'ultima volta che hai sognato ad occhi aperti. Adesso.